vabbè, avanti. Poi Gianni non è fatto già mai peggio di me, con me lo padozzi, già. E infatti raccontando se mandava entrati a Rudris Bar a prendere un caffè da Gianni, che a me mi ne scappa la risa. Solo che c'è risa, perché sennò in questo periodo sono regolare, devo fare l'intervento e cosa mi metto a mangiare. È schiacciato Natalino. Ah, te l'ho raccontato, Ni. Da Gianni, quando siamo entrati a Rudris Bar a prendere un caffè, io ancora non avevo diabete. E lui già era diabetico, però... raccontaglielo già. Sì, siamo andati a pigliarci il caffè perché ero andato al patronato lì in via 4 novembre e poi siamo andati a prenderci il caffè lì a Trismar. Cazzo, c'era questa c'era questa vetrata tutta piena di pasta, ma un bebbaro, c'era l'imbarazzo della scelta. Lì deve essere che fanno un di colazioni, perché ci sono gli uffici, eccetera, capito? Quindi le mille un bel. C'era un'esposizione di pasta, mi stava avendo voglia di mangiarmeli tutte, e la tarina, io che ce l'hanno però che ti faccio di mani, ma. Perché quella forza, eravamo solo quadrato già. Ora da chi? Cosa ci pigliavo? Io ti ho fermo il piatto e a me cosa volete? Una cioccolata, ha giocato, sono già mica venuto di mezzo, è rimasto così, no, non lo prendo. E vabbè, perché a volte me ne frego, dico la verità, perché penso una volta solo gingappa, non posso stare sempre volendo della gara di mangiare a cosa. E niente, però poi già mi sono regolare, capito? Se voglio mi regolo e ce l'ho sempre bassa, addirittura anche 89. Guarda, io sono sincero, non mi vergogno e non mi nascondo. Io per il santo mi sono preso un vassoietto di amaretti e un vassoietto di papacia. Me l'ho finito 4 giorni, ho bevuto uno ogni tanto, così però prima di mangiare quella roba lì, perché è molto dolce, mi giù la glicemia. Se vedo che è ultima, allora me la mangio uno, se no no. Ecco perché sono andato super bene. Avanti la tarina. Ma non ti l'ha raccontata vera Giulia Gianni. A giudizio che vera che stava mancata di baci, ma lo sai quanto veniva che si frisciuri, mica si piattina Gianni pieni di crema. E a giudizio che tu si rilava mai i denti, ma niente con l'occhio, ti l'ha detto che sei diabetico. Tu quando lì ci sono ricordi, ti guardate non la faccia di sbagliata. Comunque la pasta te l'ho presa anche tu l'altro giorno muto. Ehi, vabbè, già lo so che me l'ho preso anche io quando siamo scesi a Porto Torres. E allora? Allora, anche Tonino se ne mangia le paste, non è, lui fa il saltarello, mangia, già si rimagna. Ma che volta sì, quando faccio colazione e me la mangio sì, non c'è problema, ma sta scherzando, poi, a me mi piace un bacio con la marmellata, io ho anche il croissant qua, surgelatemi, io quando la mattina me la metto nel forno, esce un bel croissant con la marmellata a caldo caldo che è buono, va. Io metto sempre 10-12, me ne prendo e metto nel congelatore. Lo balzano, ho detto gula, via, giù, sotto, e si mangia. Io invece mangio solo latte col caffè e basta, non metto niente dentro, lo bevo e buco. E per puttana, ti mangi, insomma, sacramento e roba, ti mangi a voi, per puttana. No, non mi mangio sacramento e roba, ti sono curioso di adesso come mangi di lusa, se no, quando viene a casa ti faccio vedere la cartella. E infatti, sì, guarda, magrissimo, se ti metto la cadena dietro ti faccio la radiografia, guarda un po'. E fa bidelli. Ma lo sai, mi ha invitata la frigiura con la crema, a chi si la doveva mangiare, non hai compreso, l'antifona, Doni. E allora, Edo in bocchi d'orso, di bianco, ma a me metto, guarda, io già te non le compro, quando le compro, io lo so già come va a finirmi, me ne compro le scatole e me le mangio tutti, in casa ci metto in mangio, è buona lì, e se lui tutto il pacco fa fuori, me l'ha detto lui stesso, è sincero, lo vedo, mi tiro in mania. No, io sono goloso, dico la verità, ma siamo tutti e tre come drogati, l'ultimo che si muore la roba davanti, che si biasi e si la muore davanti, è normale che ti viene voglia di mangiarla perché sai che è proibito mangiarla. E poi da te qua sul fatto, quando usciamo d'estate, siamo usciti al quadrato, piace il caffè, che ci vediamo, non è che si piglia una cosa normale, no, una melamenta, se riusciva a portare la menta, mangia un zucchero va, non gliene fuggi nulla. E la voce si è dimenticato di darsi l'insulina ed è stata a 400. Che bravi, che scienze, voglio vedere a voi. Hai visto già, così ti impari. A voi voglio vedere, di nascosto cosa fate. Io già sto facendo da bravo adesso. Io guarda, massimo che l'ho avuta ieri sera, ma proprio perché ho bevuto la birra forse. E la birra è peggio del vino. Il vino lo puoi bere un bicchiere, la birra no. Allora, a me mi ha già detto il tuo facello, una roba gasata? No. Io ho avuto la fanza, la bottiglietta che si è ammazzata. Ascia e balla la glicemia. Fate il dottore si è cazzato, no, si deve solo. Assolutamente, la birra? No, già. Tu dici, acqua, io bevo acqua normale, naturale, quindi, apri a fare. Tu, vabbè, siamo pilozzi, ti piace, non so, mangia, però stai attento, mangia poco. Adesso stai facendo da bravo, già lo so io che stai facendo da bravo. Perché tu, dopo che sai meglio che hai tutto fatto quello che devi fare, più là, io sono sicuro ti mangi pure due, tre maestoni e un pandoro. No, non è così. No, perché mi sto abituando adesso a mangiare poco e tutto gatto, e poi io lo mangio primo, tu non lo sai, io primo non ne mangio, lo mangio la domenica, vabbè, mangerò cannelloni, pasta al forno, però lo mangio solo la domenica il primo, se no non ne mangio. C'è il cannelloni, pasta al forno, ma sta lì, una che ha dieta, ma poi si non mangi di nulla. Doni, quando vasi queste operazioni che devi fare, andiamo a ritirarla a ritirare, quando lui ero un'ima secchetta, mi dice. C'è il bar di fronte all'ospedale adesso, al policlinico, c'è un bar. Riesco a far durarmi. Pensa un po', Gianni. Io perché voglio ti telefono spesso, vengo aiutato a trovarti, perché io sono sicuro che se io poco poco manco un mese e mezzo, la lì che mi caccia fatti, se un minimo mesi, 20-30 in più. No. Già mi sono regolare se voglio, guarda che sono sceso 50 kg, è difficile, in un anno sono sceso 50 kg. Ah, se vuoi, ma siccome tu non vuoi? Diciamo che ci sono le tentazioni, c'è quella pasticceria che ti ho detto, mamma mia, che si basi con la greva che ti rifarà dagli angoli della bocca la portacere. Oh, con questa dottoressa del Corsi mi piace troppo, fatto fare, non mi ci vuoi più mandare. E mi ha detto, speriamo che da dottor Ricano poi ti lascia fare altri per 10 giorni questa ginnastica, c'ho sempre io, se faccio fare la ginnastica, cazzo di trichista, mi vuoi mollare più, bumbu, andare. Peccato che l'altra tipa mi ha cambiato l'ora e non la vedo più, quella mi dispiace che. E vabbè, comunque sto migliorando un bel. Il piede 100.000 volte migliore, trinza, che bello veloce, non si è più zoppo, ma detto, dai, se mi fate fuori almeno poi chiudo la pratica, lo do all'avvocato e poi la circolazione mi posso ritirare. Speriamo proprio prima. Ma anche il peso tante volte vuol dire, tante volte ti dicono sempre di dimagrire, perché anche quello porta magari a farti avere più dolori, più cose, il peso. Io dolori ce l'avevo perché le cette che ho avuto, e poi ho detto, ho avuto una bella frattura lì, avuto. Beh, il maleo l'ho anche preso, tante fratture piccoline e tutto, è un casino, quel maleo con l'osso puzzinoso che già ha fatto lo smalto, però piano ti ha tirato ben male, cosa era? Ma comunque, ho già dimenticato, da 16 luglio adesso, non so anche meglio 100.000 volte. Niente, devo usare i fantasmini, devo tagliare l'elastico con la forbice. Ho già, perché davanti e dietro, mi piede che ho avuto la frattura, perché automaticamente c'è l'elastico troppo stretto, e mi si ferma, non so che mi si gonfia il piede, allora io devo fermato, non sono normale, con la gente che sto facendo sto anche andando meglio, però devo usare almeno un calzino così, per forza. Ok, ma ti ha tagliato. Cappa, gioia. Io perché non gliele prendevo i pasticcini a mia moglie la domenica, però ne mangiavo uno, due, perché lo sapevo che intanto mi vado gli animali, e quando ne mangi uno, due non ti fanno nulla. Cosa me la fatti ammazzare uno, due pasticcini mi dichi di minori, però prima non ne mangiavo nulla addirittura. Ah va, che proibito è! Mara, Zucchi! però no, non le sto mangiando, a pranzo addirittura il vino me lo dà mia moglie, se no io bevo acqua. Il vino, mezzo bicchiere ne bevo a pranzo, che posso bere un bicchiere anche. Bisogna andare a Sicilia di Protollella, che c'è, sono le paste belle grandi e hanno anche molta crema che ti esce dagli angoli della bocca, che è buona. Insomma, ma ovviamente puoi fare dei figosi, boh. Ma ti immagini, già tu c'è male che ti rubozzi a Ricchio. Ma buone, sono tutte cremose. E sai che io altro non sapere da mangiare mi falla. Cappagappa, bisogna andare presto perché chiude, la sera chiude, quindi non trovi tutta la roba se non vai presto, ma se vai presto trovi quei cannoncini belli grandi, cavolo, tutti cremosi, e non guarda spreco, C'erano di croissant l'altro giorno e gli ho detto, quindi come sono? Mi ha detto, questi sono vutti, però se vuole li riempiamo con cioccolato, come vuole. Ho detto, no, li metta la crema, cazzo, ogni cosa di crema che la buccia. A me proprio la crema non piace, a me piace la marmellata. Io ho trovato un chiosco, dove ero, non mi ricordo, stavo ancora lavorando, erano le parti, e io non mi ricordo, c'era parte la gentiera. E siccome era con Roberto, lui conosce tutte queste zone qua. E già c'è un pioschetto, questa tipa simpatica, giovane. E gli ha detto, come sono su quelli? No, gli ho detto, qui cosa vuole? C'era tutta una cosa. L'ha entrato, ha detto, frutti di bosco, via. E l'ha fatto un bel ottimo, era bello pesante. Questa è una buona idea. No, una crema non mi nausea. No, meglio marmellata. E invece la marmellata non è dolce, no? Allora, però Gianni, li biasi, ne chi si frigiuri, mi chi si vede bene, una crema, alla faccia di un diabete. E così quando con una mossa ti dice la crema nei fianchi, la faccia all'altra. Ma bastardi che siete, anche a voi non vi piace, eh? No, noi non le mangiamo, le guardiamo e basta. Con un asso. Allora vedi che io lo so, con i cucci di Gianni. Siamo parati a Porto d'Oro, la strada mi ha invitato proprio chissà. Ma cosa? E tu si doveva mangiare la frigiura? Siamo andati a prendere un caffè al bar Cristallo. E mi ha invitato, e la passano la vuoi, proprio a chi si la doveva mangiare, è duro. Fruttinoso Gianni. Beh, a Trismare ovviamente sì, già, è tutto ufficio, dove c'è di fronte a Fosaro, sai, c'è Banca Sardegna, e tutto quel palazzo in alto, c'è anche Vincere, sono tutti uffici, ovvio che là non vedi niente colazione. E poi ci sono anche le finanziarie da vicino, c'è un sacco di roba, io abitavo, ho fatto Lovella prima, quindi sono su proprio la zona. E poi vedo lungo che esce un malato tu, e per mattina preso ovviamente. E vera questa mancata di baci, quando sono andato a piazza Rugaffè, quei Gianni, come ti raggiungo, la baia di Siri, cazzo, si ripuri a mangiare con l'occhio, chi si baci, chi si viriciuri, di bieni di zucchero e di crema, mia. Ti raggiungo che sei diabetico, tu. Perché in realtà io ho la vitrica, Ma io non ce l'avevo il diabete quando siamo andati al Trisbar ancora, capito? Io me ne sono accorto che tu te le stavi mangiando con gli occhi le frittelle, perché io lo sapevo che ti piacevano quelle con la crema, quelle frittelle con la crema. Chissi, come ti mangi una righisi ti sta dicendo. Beh, tu non ci crederai, a me prima i dolci non mi attiravano più di tanto. Da quando c'ho il diabete, cazzo, boh, forse perché è proibito, è il frutto proibito. Infatti devi dire cane smacchia. Domani passano a Protollella a prenderti le paste tu lì. E dopo mi dai la risposta, ti esce la crema dai bordi, ah, te non ti piace la crema. Ma già c'è anche la marmellata, c'è tutto quanto. Ogni gusto c'ha. A me la marmellata appunto non mi piace, la scarto. Marmellata, le paste con la marmellata, le paste con la cappa. I bignini li mangio ma li tolgo la cappa. Ma dimmi, dov'è questo posto? Dietro la chiesa del Cuore Immacolato. Dietro proprio rimane. Tu prima di arrivare praticamente sarà la via Grazia Deledda, la prima traversa che trovi prima del Cuore Immacolato è sulla sinistra. Allora, sulla sinistra, perché dietro la chiesa c'è il Bocciofi, lo sappiamo, è la scuola di ballo. Quindi questo è mai più giù, allora come gira a sinistra, rimane quella via prima di della tua incrocio di via Petromina. Eia. Anziché lì bacia, beh, tutte e tre croce di Rubica. E lì la possedora la tarica, tutte le croce, pizzerie, e gelati. Hai capito la tarica? Un attimo, sono al telefono. Eia. E a Pozzodona lo stesso conosco bene i posti dove si mangia bene. Qua tutto un bimbo, però dove si mangia io cerco sempre i posti migliori. Adesso devo bastare con la pizzeria che hanno aperto l'uovo a Porto Torres, che praticamente non ho ancora mangiato la pizza, mi hanno detto che la fanno molto buona, molto molto buona, e bisogna che ci vada a provare. Magari ci andiamo insieme. Perché no? Allora io mi ricordo quando lavoravo a Fiumesanto, prendevo con la macchina mia a lavorare alcune volte, e tu ovviamente lo conosci perché lavoravi già a Porto Torres, lavoravi, secondo la Fiumesanto tu lavoravi già là. Io andavo alla Nuova Zurigo e di macchina mangiavo un pizzo e venivano buoni. Sì, la Nuova Zurigo per fare non c'è più, me lo sa. Lo so, purtroppo sì, perché non ci sono ordinato io a mangiare la sì, anch'io andavo lì, mi prendevo anche il gelato perché c'era fermato il Puma di fronte. E aspettando mi prendevo il gelato. Ma sai cosa succedeva? Ma non c'era qualche persona senza fare i nomi, cioè di noi operai. Andavamo in 5-6, chi se ne mangiava 3 o 4 di matti, di goico, e ne pagava una. Ui. Comunque a Porto Torres, come pasticceria, c'è Acciaro che ne fa buone, e cose, il bar Cristallo. Ma Cristallo ci lavora la figlia di un amico mio, ex mio collega, è una bella ragazza, pure. Ed è anche fidanzata. Sì, mi ha portato Giuseppe, mi ha portato il Franzi, che è di sorso, c'era anche la mia figlia. Poi ci mettiamo, sì, no, sono in buona pace, perché io sono entrato più di una volta lì, anche da solo, via un caffè. E di solito io, è raro che entro nel bar così, quando ovviamente mi fa il bisogno, cavolo, allora entro, beviamo un caffè, però a volte resisto, perché mi cerco un bar dove il caffè lo fanno buono, perché non mi piace andare un bar e mi devo far dare anche rotto e carteggina. Io al bar ci vado solo in compagnia, da solo non ci vado mai, ci sono quelli che vanno soli, si prendono il caffè, così o no, se non sono in compagnia non ci va. Se io non sto facendo il bisogno, come faccio, è una parabola. Allora, posso garantirti, che l'ho preso anche stamattina, di fronte a Marte Ecclesias, scendo giù il tabacchino e poi c'è il bar, là fanno un ottimo caffè. Ma ottimo, buono, buonissimo, come lì l'ho trovato buono anche la piazzetta. Non sono molti che faccio il caffè buono, e anche il trisbarato buono. Io ho preso macchiato e guarda, una cosa fenomenale. Con quella bella panna che ti dà, è perfetto. Io mi ricordo quando stavo ancora lavorando, quando andavamo lì via, gli dissi a San Vittorio, ma lo fa un caffè macchiato? E dice, ma capito, io voglio prendere un caffè macchiato al bar, mi metto la panna qua, perché uso l'Ema, i latte, e mi ha detto, e perché io manco il gioco, ho detto, il latte è buono, ma sei, e ha detto, e anche io non so come ho pagato il caffè, ma te lo metto, e me ne sono andato. Così impara. Sempre rispettoso come una scimmia. Prima so io. Poi un'altra volta, con l'amico mio, ci vediamo caffè, io, in via Castelletta, e c'è un anziano, sulla sinistra. Ho detto, a me mi dà un latte, perché allora io il caffè non l'avevo voglia. Ma già, tu non ci credi, si era abituato a questo latte. A chi mi ha avuto un latte nel bicchiere del Campari, ma stiamo scherzando. E questo è quello che te ne metto un litro. Cazzo, ci va il bicchiere normale, ce ne va un quarto di latte, così ti fidi. Ma non un bicchiere del Campari, che ce ne va un cicci. Ma c'è altro trubito e me ne sono andato. Vai, fidati. Purtroppo la gente ci prova, capito? No, se vuoi la fare pure è un conto, se no, capisco. Io mi attacco al centesimo, ma ti spiego pure cosa mi è successo a me. Io ero con mia figlia e da papà sei sempre subito, non ci ha dato ragione. Allora, ho preso un coso di, cos'era, di yogurt a bere. 1,99 euro, vado alla cassa, perché mi si è fece più o meno, quello che c'è vicino a fianco al Titanic. E dirò 2 euro già, vedi, ascolti io a posto. Scusa, è un 98 centesimo di date. E no, ma che non lo sbatte, questo lo batte così. Ma io mi darò un euro, se tu mi fa pagare 2 euro, mi dai lo scontrino 2 euro, se mi fai lo scontrino. Dice no, io poi c'è un viso un po' messo male, ha aperto la cassa, ma tu ci dici, e non dovrei neanche dargli, ascolta, se insisti tanto tu non me lo vuoi dare, ti sto chiamando la finanza, perché tu mi stai dicendo questa freccia non vuoi dire, è un centesimo, ma stai scherzando. Allora, se io non ho un centesimo, tu a me quella roba non me la dai, capito? Perché mi manca un centesimo e tu non me le vuoi dare a me. Invece ho visto che l'aerospin sta cambiando, ti arrotonda direttamente, capito? Se per esempio, però che non vuoi dare monete il rame, è fatto fare, se 2,15 ti fa pagare 2,10, non ho fatto. E questa è una cosa buona, capito? Sì, da tanto, anche con il Farasecca fa così. Però può essere a tuo discapito oppure a tuo favore, dipende. No, non è il mio discapito a favore. Io pago 1,99 e tu gli devi trovare un centesimo di 2 euro. Per legge, se ti chiamo la finanza, devo essere la prova locale, ma non siamo fluenti. Può essere a tuo favore oppure a favore loro, dipende, dipende dalle volte. Loro arrotondano sempre, capito? Arrotondano, come ti possono far pagare, non togliere le 5 centesimi, ti possono far pagare 10 invece che 5, capito? Sì, ma tu nel prezzo metti il coso giusto, capito? No, se metti 2 euro, 2 euro io te le pago, ma se tu mi prendi per il culo 1,99 e poi non mi togli il centesimo, allora le pretendo, tu me le dai. Già, è così. Già 1,99 lo metto per non far vedere che 2 euro, per far vedere che di meno. Da voi cantarvi la cassa ti devi pagare 2. Allora io poi del pollo entro per i cani di Giorgia, lo sai, quello rosso costa 4,99 euro, mi fa pagare 4,95 euro già. Pensa un po', in via del pollo tosse, devo spingere. Lo so, è tutta un imbruglio, anche quando vengono a portare la pizza lì mancano 20 centesimi, 30 centesimi, ma non so più, non sono più 5 centesimi, sono 30 centesimi, l'altra volta è venuto qua a portare il pacco, gli mancavano 2 euro, gli ho detto ascolti, come facciamo? Dice ascolti, ripasso e le porto, va bene, tu misura altrettanto io, adesso dalla prossima volta se non c'ha, se non hai solo di dover ritirare il pacco, come una futtinuta. Cazzo, 2 euro così bruciati. No, io quando so che devo ritirare qualcosa e mette su di giusto e giusti, no? E ci me la messo. Data lì, c'è entrato. Ero al telefono, ero. Eri prima. Scappa. Gloria. Ah, vai, c'è un gombo con un cacatri. Mamma mia, me ne alzava mal di schiena, no? Non scuoteva stare. Natali, quante hai preso? Quelle tutte bombate che hanno la forma attorno. Gira. E la poltrona, non è una sedia, è una poltrona. È anche ribaltabile, mi c'è il coso che si abbassa lo schienale. Ah, già va bene, dai. Sono sagomate. È bella, Era ufficio proprio, tipo quella che avevo prima, ti ricordi quella dell'avvocato? Sì, già me lo ricordo, c'è da recuperare. È tipo quella lì, solo che questa si può reclinare lo schienale, mi. Ho capito. Ah no, pensavo che quelle che usano al computer, tutte quante bombate, che c'hanno tutta la forma della schiena, eccetera. Ho già di quelle di lusso, questa qui, forse anche meglio di quelle da gaming che stai dicendo tu. Non è alta come quella da gaming, però è una bella poltrona. Cava, cava. E va bene, dai, interessa a te che stai bene. Ma ti intendi in trono? No, è qua. La sedia normale va bene giurba magna, ma se ci stai tanto tempo seduto, te ne alzi a mal di schiena con le sedie normali. Infatti, io ho fatto il divano, nella cateria, mi guardo tre giorni sul divano. Mangio seduto sul tavolo, poi direttamente me ne parlo di cuore prendendo sul divano. Perché che non ce la faccio alzare, cioè, perciò, guardami, fatemi la china per ragione. Poi ogni mal di schiena non potevo stare, guarda. Cos'è già? Non ho parlato. E che ha parlato? La cadete l'avvocato, come te? Chi è che l'hai detto? Buonasera a tutti, cari fuori da questa, ciao Torino e ciao anche a Gianni e a Natalino. Buonasera. Scusami, ti hanno rilasciato. Ciao Fra, abbassa per la presa. E non abbasso, sto uscendo con 5 watt io. Come ascolti Torino? Sempre bene. Ha tutto alternato, si è piegato, se si è fatto scala, come Gianni, però si è leggermente più basso perché con le fighe ti ho regolato, cioè ti ho visto a quanto sì, da piego 8, invece già le si piego 9. Comunque, sempre perfetto, ti hanno rilasciato, dopo tanto ci si risente. Ciao, ben sentito, Franco. Avanti, Atari. Ciao, Fra, ben entrato, ben sentito. Ero fuori, Tony, già lo sai che è continente, quindi non ho potuto fare neanche viaggiare, perché ero fuori, c'avevo cagini fuori, quindi niente, è tutto qua. Vuol dire che lo farò al prossimo anno, tutto lì. Vai, Gianni, buonasera. Ciao, Fra, ciao. Allora, io e noi siamo vicini, per quello ti sento così, siamo troppo vicini, si vedono le antenne, anche diciamo se la troppo più bassa, ma si vedono. Sì, ho questa antenna di gomma, lo so dove puoi andare. Ehi, già va. Opa. Sì, Tony, dimmi. Aspetta, una curiosità. Dimmi. E vedremo, te lo dici, mi vendo tutto. Ah, io, prego, me lo dai, te lo compro? No, che punto devo ricomprare, la mazza. Ma tu farà la miraggio da casa, però giù di te, ve lo pulito. Oh, io. Natali, vai a fare un affare con Franco. E perché, cos'è successo? Vendo tutto, il chiamito che c'ha, parla, microfono, mi dai da, qua, 400 euro. Franco, allora, sto salendo tra un po', mi dai tutto, ragazzi, porteciosi. No, sai cos'è? E poi se io vedo tutto un po' per il mento, voglio tutto la compagna, ma mentre molto me l'ha fatto anche io come. Mi bacia. Perché non glielo volevo comprare io, non me ne ha voluto dare. Ma perché lo dici allora? Sì, a chi tesimamenti, di sconforto. Ti dici che si lo può vendere. Come ti andrà a comprarmi tutti i sinali, da poi mi tocca comprarmi l'udorra, compreso. E poi è bello che non lo trovo più, capito? Ma cosa non lo trovi più? Non so quanto ce ne sono i 4,40, aiuta. No, di quello che a lui non lascia più a vero, non è il 4,40 quello che è a lui. Cos'è 4,80? No, il 6,80 lui è. Non si trova il 6,80. No, è quello che c'ha i 6 metri, pure quello che ha lui, è per quello che non lo vuole dare. Ehi, se vai giri, anche fuori già si trova, dai. Io da poco sono andato a trovare una persona perché deve dargli roba, gli ho regalato roba e ho visto il gioiello che si è comprato, veramente è bello, mi piace. Sì, e usa che solo 27 lo usa. Un bel apparato, mi è piaciuto. Poi, se non trova quello, ne trovo un altro e ce ne sono un giro di questi. Niente, io purtroppo per comprarmi uno di quello mi devo vendere tutta questa roba, che io a Trinità dei Baracchini non mi piace più, io già mi ho regalato quei 4-5 che ero proprio di chi se mi piace, poi la giorni grata che non me ne faccio una. E infatti io non, è lo stesso non. Mio figlio ha messo una foto. Oh. No, ma quelli che ho mi piacciono tutti. Io c'ho sempre il compa tuo, è bellino, eh. Sì, quello era nuovo, nuovo. È sempre nuovo, che l'hai mai usato. Una volta solo ci ho trattato, è sempre nell'armadio. Quello fa 5-6 luci diverse. 4 luci fa. Io ho l'armadio muro, me l'ho costruito proprio perché se baracchini, ma adesso lo sto svuotando piano piano, perché ho altre intenzioni di mettere roba che è più utile anziché baracchini. Troppo ne ho sbigliato, basta, non ne voglio più. Oh, i maschi sono salvato. E allora fra, fuori, dove sei andato? A Cermina del Garda, ero tu lì. Oh, adesso mi piace il piacere. Sì, sono stato bene, un paio di... C'era un bel po'. Adesso, prima di Natale, dovrei ripartire. Adesso che c'era la Santa Antio, volevo partire, quando è? Venerdì mattina. E io, vabbè, anni fa sono andato a Livigno. Invece adesso, domenica scorsa, è partita mia nipote a Livigno. Era solo domenica, bello quel posto là. Però, boh, basta, io, canazzi, sono posti sorpresi, la verità. Ma io devo suonare del tutto per il cielo che è avuto, quindi poi vedrò dove andare. poi c'è anche in Sardegna che sono virtuosi, mi bisogna andare fuori, si da pigliare luci. Va bene, la neve come ce l'è là, non lui non ce l'abbiamo mai avuta, diciamo così. Quindi, però, vabbè, ce l'abbiamo possibile comunque. Avanti, già. Va a Montespada, ce n'è neve, canto di buco. No, Montespada non mettiamo, meglio Montescudo. Via. Fra, sei andato proprio all'interno del paese dove c'è l'arcata per entrare, eccetera, dove c'è il fiume che passa sotto, si vedono le carpe, su quel punticello, le mai viste? Guarda di positivo, sono salito pure al castello su. E io sono sceso anche nella spiaggia, c'erano i cigni, sono venuti a mangiare da me, cazzo, ti beccano, e noi, sono stati tutti di beccani, ti mangiavo il pane dalla mano. A freddo? Sì, io mi sono nei miei pussi, poi sono molto fioriti, all'entrata è tutto fiori, non so se c'è ancora così, dalle volte che sono andato io era tutto fiorito sempre, bello, ci sono i cannocchiali per guardare il panorama, ti metti i soldi e ti guardi il panorama. E ce ne sono questi belli già, veramente belli, poi pulita anche come città di lusso. Poi la cosa che mi aveva entusiasmato molto è il fatto che in ogni negozio c'erano i cartelli attaccati, cercasi barista, cercasi gelataio, cercasi, qua tutti i posti pieni di gente che cercava. Ma noi abbiamo il lavoro, lì lo trovi subito al volo il lavoro, non è come qua, no, è completamente diverso. Vai Natalie. Ecco, io sto mangiando qualcosa, vi ascolto. Ci sentiamo più tardi al limite, se ci si è. Vai. Ciao Natalia, buon carica, buon tutto, ce l'hai ascoltato dopo. Vai Tony. Ciao Natalia, buon carica, sotto il Corea, ci sentiamo se è possibile dopo. Ok, avanti già. Buona carica Tottarino. Siamo qua, se vuoi rientrare non c'è problema. Ieri mi ha fatto vedere la voglia di mangiare a fare e mangio mille della vai. Mi sembra di avere una gamba a me, va. Io una volta me lo sono fatto qua a casa, ecco che si da buona lì. No, io non ne ho mai fatto. L'ha fatta quella di fronte, ce l'ha portata una volta e qua non ci credevo che l'aveva fatta lì, sembrava fatta proprio dal forno. C'è proprio la tegliuzza, proprio la farina di cicci, poi la mescolo con cosa elettrico, ci metto un po' di sale, ci metto quello lì, insomma, esce veramente buona, proprio, se non voglio fare altro lo faccio passa. Troppo buona, e infatti mi sa che adesso che c'è freddo questo periodo, mi sa che me la posso, domani o dopo. E che olio ci metti? Olio d'oliva. Boh, io invece l'avevo vista a fare con l'olio di semi, lo sai, la gente che la faceva. No, dai, c'è quello buono l'olio d'oliva, sto scherzando. E tutto sa per le quantità, perché se c'è le quantità non è che ci voglia chissà che cosa a farla, eh. Allora, buonissi un po' di zioda, e mezzo, olio, la farina, la giri, la mescoli bene. No, ci parla bene quando sei già nella teglia, la sua fai così la cipolla, o la salsiccia. No, e tu, quando tu fai l'impasto deve poi aspettare a farla riposare bene già prima di cucinarla, capito? Io so già le dosi perché ce l'ho scritto con un foglietto. E quindi la mi diretto. Adesso è un periodo che ci vuole veramente, a me mi piace troppo la freni, mamma mia, che... avanti fra. Cappa, io l'ho presa l'altro giorno, mangiato, ma non è come quella che fai tu, quella che fai tu è diversa, mettono olio di semi qua, l'ho presa giù da Piras, era alla gatta di olio, per carità. Ah, io metto un poco olio, proprio d'oliva, poi nella teglia metto bene, che non si attacca, capito? C'è una teglia proprio di lusso io, non quanto te la fai me, me l'avevo comprata tempo fa, non mi ricordo se l'ho presa la Lidl. Ci sta una bella, è alta, mi sembra 5 cm. Ma ne metto poco, un filino, cioè la faccio bassa bassa io, con la crosticina, è poco di scivola, mamma mia. Dove la fai? Nel forno? Certo, la faccio in forno. Metto il forno a 200 gradi. E la guglia, 200 gradi. Se ci mi sa che lo portano su cena a 250, dove la fanno? No, io porto a 200, lo faccio fare con calma. Non vedo che si brucia, capito? Io intanto la guardo, dal vetro, da fuori, cioè vedi, ho intanto apro, metto un secchino, sì, ok, sono pronta, ancora dopo. Eh beh, vabbè, tutta un'altra cosa. Anche mia sorella la sa fare bene, buona la fai. Di solito quando la fa mi chiama ogni tanto. A me mi sono chiamato tutta la ricetta per farla, come si fa? La missione, ma cosa mi fai? E tu già, ce la vai? No, tu l'hai già fatta, già pronta a mangiare. Sì, ma sarebbe bello, perché a me piace impiastricciare in cucina, quindi sarebbe bello anche farla qualche volta, magari quando non hai voglia di ordinarla e fare, te la fai tu, almeno passi il tempo. E bisogna avere la ricetta, fammi avere la ricetta, magari ci tento anche io a farla. Qui compro la teglia adatta, ma le teglie migliori sono quelle stagnate. La mia è buona perché la fa buona, la verità, e non si attacca. Lo so, e quelle che c'hanno i... quelle che fanno la femmina, lo so bene, eh? È tutta una cosa diversa già. Io ho quella che ho comprato, ti dirò che è aderente ed è perfetta. E posso fare anche la pelle quadrata, ti chiedo tutta. Gianni, ma tu ti parlate di Franco? Io sono al telefono. Ok, Franco, ripeto. Senti, stavo dicendo tu, ma la radio non è questa, va bene? È un po' saturo, sì. Troppo forte. Se abbassi un po' continuo, forse mi... Esiste un attimo. Abbassa appena appena. Oh, aspetta, la cacchia di un altro. Guarda adesso. Sì, sempre, andava bene quando hai abbassato anche il segnale. Adesso dovrebbe andare bene. No, se abbassa e poi lo rialzi di nuovo, abbassalo. Ma così? E poi è meglio così che come era prima. Vabbè, forse era troppo alto. Cosa c'è, il microfono più amplificato? Il microfono suo originale. Ce l'hai mai che idea, sì? Quindi aspetta un attimo, ve lo regolo qua. Guarda un po', 1, 2, 3, 4. Tu ha attenuato, da 104 si è stato Santiago Urso, la massa di rinvaria. Così bene qua. È attaccato, e insomma, più o meno dai. Aspetta un attimo, voglio vedere una cosa. Beh, ce l'hai fatta. Guarda adesso, 1, 2, 3. E sei più chiaro. E segnale com'è, buono? Quindi va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, sul 9.30, sullo 0. 9.30? Yes. E già va bene. Questo è l'altro apparecchio, il magno, no? Sì, quasi il segnale di Gianni, quasi. Questo è il magno. E chi c'è che magna è? Allora, io, cosa vuoi per il magno? Sempre con Marcelli. Allora, voglio fare la scorta qua. Sto facendo aggiornamenti al computer, l'ho spento, adesso mi sta facendo fare gli aggiornamenti, sta facendo aggiornamenti uno di uno. Cazzo, gli è una cuta aggiornamento. Devi fare forse i giorni, sennò ciccia. Niente, io quello che avevo avuto dal mio figlio, adesso me lo ricordo. Vabbè, per il momento uso solo il telefonino, ho link e internet in casa. Ho installato Alexa, infatti quando dico buongiorno mi dà buongiorno anche a me col bacino, la buonanotte e tutto mi dà. Ma poi dico mettere musica. Adesso voglio provare quel 68, quel 48. Midland. Allora fa, è poco veloce. Mamma mia, che radio fea con l'eco. E così com'è? Meglio qua. 1, 2, 3. Radio, ti posso dare radio 2. Adesso sente eco. Brutta come radio. Bruttissima. Lo schifo là. E si è stato al massimo proprio. Ti massacra la radio. Aspetta un secondo. E adesso? Adesso ho aumentato il radio. E va bene. Potrebbe andare bene, comunque potrebbe andare meglio come prima. Così va meglio, dai. Così è perfetta, lasciala così. Scappa di positivo, dai. E io come ti sei arrivato la OFA? 9.30 Radio 5. E io ho la tua stessa antenna. No, stai arrivando benissimo qua. E scusa, ma è che normale, è il Galaxy. Andava. Prova a fare un passaggio, te lo controllo con questo, col 68, col 48. Dai, prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, bla bla bla bla. Com'è? 9.30 Radio 5. Già, va bene allora, dai. Microfono suo. Senta col presidente, metto già che esco meglio col presidente, come chiara, come la modulazione più chiara, com'è che normale sempre. Questo non lo so, questo c'è lei che è incorporato, ma è uno schifo, non mi piace. Adesso glielo do appena appena. Guarda un po'. 5-6. Poco poco, mia. Mi guarda questo qua, lo fa schifo lo stesso. Guarda com'è adesso. Non è che mi piace più di tanto, praticamente. Hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, sì. Com'è? Già può andare, dai. Ma non mi piace, ecco, mi piace più normale, capito? Vabbè, io mi sento anche delle cuffie, mi sento passaporto. E anche questo. Gianni, ancora il telefono, sì. Lei ha fatto fare, sì. Andrò a me, tu, io mi devo preparare qualcosa, metto sotto i denti, dai. Perché mi sta avendo un po' di appetito, fra. Se a caso, più tardi, accendo, se c'è qualche giorno e mezzo, c'è un partito, mi guardo la TV, cosa ticchia. Sto facendo sempre fisioterapia, ginnastica, in palestra lì, a Conti. E i piedi stanno veramente bene, cammino bene, non zoppico più. E fai bene. Vabbè, dai, Gianni, sicuramente passate il QRT. Arrivederci, ci sentiamo più tardi, se coincide. Anche io vado a fare un po' di carica batterie, dai. Ci accendi dopo, ci sentiamo, dai. Ciao Vittorio Ascoltoni, alle prossimine. Ciao Fra, saluta da Lucia. Ciao ciao. Mi sono contraccambiato. Ciao anche a Gianni, io passo in QRT, vado a fare carica, dai. Idea come sopra. Ciao ciao. Radio 10, buonasera. Prova Radio 10, buonasera. Hola, hola. Ehi, ehi. Che ti sarà, David? Hola, c'è qualcuno che è rimasto? Ciao Gianni, sono Gavino. Ciao David, ti ho riconosciuto. È positivo. Sono qua che sto facendo roba in minutaglia. No, io ero in ruota, però poi mi ha chiamato mia sorella al telefono e quella lì non mi molla più quando mi chiama, e quindi poi se ne sono andati tutti del vestito. Positivo, sì, sono andati a fare carica. Micro sistema Andofili. Vabbè, cosa mi dici, che la persona ha chiamato? Positivo, no, questo qua è quello là. Quello che... 450. Ma quello che non andava? No, quello nuovo, 450. Ah, l'hai preso lì? Positivo, com'è? Va bene. Già è positivo, com'è la radio già? Mi piace. Sì, è bella forte. Poi la tua voce si addice a quel microfono, cosa c'è, l'MC 60? 80, MC 80. No, già va bene. Come l'ICOM o è meglio questo? Io dico che come la l'ICOM. Questo è più bello. Sì. È più forte, sì. È positivo. Aiuto. No, l'ho messo dentro casa già. Dentro casa, mi sono stimato dei cavi perché me l'ho messo dentro casa. Ho messo in cameretta di una figlia, mi ho passato il cavo dell'antenna poco fa. Dai. Fatti dire la cosa, il cavo dell'antenna che ho fatto vedere. Fatto bene, almeno stai anche con loro, la piccola ti isoli. È positivo, dai che sono rientrati, ci sentiamo subito. Cappala, ti saluto allora, Gavi. Adesso staremo un po' senza sentirci perché se mi operano. Ah, positivo. E quando, domani? No, il 6, la prossima settimana. Dai, sentiamo anche domani. Domani ci sentiamo. Ma dico, staremo un po' di tempo che non entro, perché almeno 15 giorni è stato ricoverato. È positivo, dai, provate a migliorare. Dai, ci sentiamo domani allora. Buona serata, buona carica. Ciao, Gavi, ci sentiamo. Avanti, che c'è su 10? Certo che ti ascolto. Ciao Fla. Allora, Santiago ti posso dare Santiago 7, non di più. La radio è una radio 5, dai, un po' amplificata. K, ok, comunque saluta i H2 e anche la tua grichellona. K, io ho finito di cenare niente, non sapevo cosa fare, poi gira che ti gira, guarda, mi sono fatto un bel brodino, una bella minestrina, ci ho messo due formaggi dentro, oh, quanto era buono, ragazzi, sono andato leggero, insomma, penso un po' tu. Ciao, comunque Gianni, ben sentito dopo tanto, dai, frequenza, meno male, ogni tanto ti fai capolino. Ehi, capo, dai, pure mangiare asciutta, mi sono rotto, ho detto un po' di brodo, vabbè che anche da poco mi sono fatto un bel minestrone di verdure, che era la fine del mondo. E niente, stasera ho deciso di farlo la mano, un bel brodino di minestrina, e ho detto, cosa faccio? Mi faccio la carne, asciutto, sempre asciutto da mangiare, no, dai, ci vuole un po' di brodo, che fa bene, dai, la salute, che cavolo, non si può mangiare sempre asciutto. Bene, veda, niente, dove adesso c'è dopo il baracchino a vedere chi c'è. Stasera mi sono fatto un bel piccolo QSO, c'era la Torino, c'era Gianni e poi è trovato anche Franco California. E boh, adesso tamà, vediamo qualche nuovo entra, se no spengo tutto e mi guardo la televisione. Avanti. E io sto usando il Galaxy, tutto liscio come lui, un microfono normale e basta. Non ho voglia di attaccarmi il carne, non ne ho voglia, la verità. Sono troppo impegnato e la mattina vado a fare anche fisioterapia e esco anche a luna, arrivo a casa a 1:20, insomma. Perché sto facendo il conti è distante, dove mi tutto per l'altra parte della città. E niente, già, fare qua, fare là, poi la sera è impegnato, fare altre cose, tiri, insomma, alla fine non mi viene voglia neanche quando sono libero, mi riposo un pochettino anziché attaccare un microfono, e quindi sono diventato una mandrone, ok. Non appena poi, comunque mi ha dato ottimi, diciamo, risultati per la gamba mia, sta andando molto bene, se sta sgonfiando, cammino anche bene, vince anche veloce camminando, meglio così. Continuo la ginnastica e la idroterapia la finisco domani, l'ultimo giorno, e poi finisco anche il dance. Mi rimango sotto con la ginnastica e finisco verso il ciccio 17 dicembre, tutto qua. Così chiudo la pratica, mi fanno il foglio, lo do all'avvocato l'assicurazione e poi vediamo. E capo, tu pensa che io ero 3 mesi fermo, tra il tutore, tra il gesso, perché all'ospedale hanno fatto un casino, mi hanno tenuto 17 ore su una sedia e piede si è gonfiato con le fratture che c'avevo. È un casino, praticamente la sala gesso sono incazzati. Dice invece del lettino l'ho messo sulla sedia. Comunque, fatto sta, tutore più ingessato, più un altro tutore, sembrava un Robocop addirittura, ma cari dai. E quindi sono rimasto 3 mesi con il piede bloccato, e quindi si è gonfiato e niente, le dita non le muovevo. Adesso è diverso, adesso riesco a camminare meno, non sento il dolore e tante altre cose. E mi sta stropicciando un po' il piede, la caviglia, gira qua, gira là, sale, scende, sono tutte le dinanzi che sto facendo. Sto migliorando, vedo così. Purtroppo sì, la fisioterapia ci vuole, perché se non lo fai rimango bloccato. Ho detto lì c'è il piede bloccato l'altro giorno, mi ha detto. Oggi sta andando molto meglio, la vedo molto più libero il piede, meglio così. E questo fa piacere a me, chiudo la stabiletta pratica, buonanotte. Tu pensa che io al 16 di dicembre faccio 5 mesi esatti con questa cavo di gamba, per carità. Ok, K. Un caro saluto a Gianni e anche a te, un abbraccio Claudio. Buon carica batterie, salutatemi la signora. E non so se accendo dopo, vediamo, perché domani devo stare anche presto. Ogni mattina mi alzo alle 5, 4 e mezzo 5, no? E vabbè, l'abitudine, dai. Ok, dai. Buona cena di nuovo, ci sentiamo alle prossime. Se ci sentiamo è bene, se ho pazienza ci sentiamo un altro giorno. Ciao a tutti, statemi così bene, dai, ciao ciao. Ok, ciao, ciao, salutami anche K2, ciao ciao. Chi c'è su 10?